Tempo fa, fra le disgrazie della mia vita, mi è toccato di sottostare ai voleri di una capa. Florida, intagliorata e sorridevole, mi aspettava dietro la sua scrivania e mi poneva il problema. Dot, il problema è questo, lei come lo risolve? Io andavo, studiavo per bene la cosa, me ne rendevo conto, provavo e riprovavo e dopo un paio di giorni ero pronto. Chiedevo udienza e lei mi diceva, allora Dot? E io pronto, ecco qua signora, rosso. Rosso? Sicuro Dot che la soluzione del problema sia rosso? Non potrebbe essere verde? No signora, rosso, si fidi. È sul be, ci penserò sopra. Si chiudeva l'udienza e già la mia soddisfazione di essere riuscito a trovare una soluzione già veniva meno, messa in dubbio come era stata. Verde al posto di rosso? Impossibile, era rosso. Il giorno dopo, comunque, era blu. La mia capa mi ha mandato a chiamare per informarmi che il giorno prima io sottoscritto mi ero sbagliato. La soluzione era blu, assolutamente blu e rigorosamente blu. Per fortuna che c'era lei. Ma a quel punto uno diventa relativista. Per me era rosso, ma siccome devo ammettere che nessuno su questa terra possieda le chiavi del paradiso, nessuno me compreso, può darsi che per altri blu fosse meglio. D'altronde non si trattava di un problema matematico e non c'era per forza di cose una ed una sola soluzione. La voleva blu? Che se la tenesse blu? Se non fosse che il lunedì della settimana dopo era gialla. Già, gialla, contrordine compagni, la capa ha capito. La soluzione non era affatto blu, ma bensì gialla. Mi ha chiamato e mi ha detto, come ormai saprà, è gialla. E a dirle proprio la verità mi stupisce, ecco, che uno come lei, Dot, non se ne sia accorto. Se dipendeva da lei, saremmo ancora al blu. Io cominciai a non dir più niente e ad essere meno tollerante verso il relativismo culturale. Cominciavo a comprendere meglio l'atteggiamento del cardinale Bellarmino nei confronti di Galileo, di Stalin nei confronti di Trotsky, nonché di Landru nei confronti della signora. E continuai a tacere anche parecchie settimane dopo, quando venni a sapere da un collega che la soluzione d'improvviso dal giallo era passata al bianco. Inutile dire che tutto ciò non era precisamente incolore. Un cambio di soluzione, fosse anche stato dal lilla al violetto, comportava una correzione di rotta di un intero ufficio, ove parecchi impiegati si dannavano l'anima per rifare dall'A alla Z il lavoro secondo la nuova impostazione. Ed è anche inutile dire che se all'inizio questi impiegati si dannavano l'anima, dopo un po', capita l'antifona, l'anima hanno cominciato a dannarsela meno. Come l'uomo preistorico aspettava il fulmine che l'incenerisse, e con il medesimo fatalismo in ufficio si attendeva un mutamento radicale di rotta per assecondare una nuova interpretazione del problema. I mesi passavano e il bianco conobbe, come dire, i suoi momenti neri, diventando prima azzurro e poi terra di Siena, per tornare in un breve interregno giallognolo e forse anche indaco, fino al giorno fatidico in cui tutti, proprio tutti, fummo convocati di fronte alla scrivania della capa per un'importante comunicazione. La capa ci guardò uno per uno e noi tutti assumemmo quell'aspetto fisico che la commiserazione altrui esige per potersi esercitare compiutamente. Soprattutto il suo sguardo si fissò sulla mia persona per manifestarvi tutta la sua delusione, come dirmi, da lei, Dot, non me lo sarei aspettato. Poi la capa parlò e disse, è rosso, signori, è inequivocabilmente rosso. Io qui mi irrigidii e provai a riergermi, mentre mentalmente mi munivo di chiodi e martello per la crocifissione. Dissi: «Scusi, signora, ma mi permetto di farle notare che io qui presente, e se vuole qui sottoscritto, l'ho detto subito che era rosso. La sua soluzione ultima, brutta miseria, se ancora mi permette, è perfettamente uguale, ancor più brutta miseria, alla mia soluzione prima. Non so se mi spiego». Beh, ecco. Chi credesse ad una capa cosparsa di cenere, alle vesti strappate dal florido petto o alle unghie conficcate nella propria carne in segno di penitenza ed espiazione, beh, chi lo credesse si sbaglierebbe di grosso. Ha sorriso, mi ha guardato con sufficienza, si è lentamente indurita negli amabili tratti ed ha trovato il coraggio di dire: «Vede? Vede perché non si può lavorare con lei, Dot, eh? Con lei uno non può mai cambiare idea. Più duttilità, più elasticità ci vuole». L'aneddoto valga per indurre a serie riflessioni sull'autorità. Non dico che al mondo non ci debba mai essere qualcuno che comanda su un altro. Mi basterebbe che al mondo chi comanda debba rispondere dei criteri che usa nell'esercizio di questo suo comando. E chissà perché l'aneddoto mi ricorda anche una noticina di Dennett in quest'ultimo suo libro intitolato Alla coscienza. Una noticina laddove Dennett racconta di un curioso animaletto marino. Si chiama Ascidia. Ed ha una caratteristica, questo animaletto, in comune con i professori universitari non appena hanno conquistato la cattedra, forse con i premi Nobel e di sicuro con i generali di tutti gli eserciti e presumibilmente con i capi ufficio di tutti gli uffici. Questo animaletto gira qua e là, portato dal DNA e dall'istinto primordiale, fino a che non trova un sito dove insediarsi per il resto dei suoi giorni, sia esso uno scoglio o un corallo. Come il posto l'ha trovato, raggiunto l'obiettivo, si trova con qualcosa di superfluo e si mangia il proprio cervello. From Hay to Hendricks, I walk these streets with you. Here I am with this old guitar, doing what I do.